in primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani, anche se come sempre iniziamo da Financial Times. E il titolo oggi di Financial Times è una notizia che poi trovate anche su altri quotidiani, anche sul Sole 24 Ore, non però come titolo di apertura, ed è quella sull'andamento di ieri di Tesla, il titolo del colosso delle macchine elettriche, creato da Elon Musk, che a sua volta ha qualche problema, lo ricorderete, nell'ultimo anno, forse una cosa per la quale si potrebbe ricordare il 2018 dal punto di vista finanziario sono state le intemperanze di Musk durante le cosiddette conference call per annunciare i risultati trimestrali, sempre più insofferente per le domande degli analisti, tanto che poi a un certo punto si è dimesso da amministratore delegato e ora è presidente di questa azienda sicuramente innovativa. Però, lo avete sentito anche nei GR, le nubi che aleggiano sul settore dell'auto, anche sul settore dell'auto elettrica, hanno fatto appunto crollare il titolo, anche perché comunque per quanto riguarda Tesla i risultati sono già oggi deludenti rispetto appunto alle aspettative degli analisti. Molto interessante l'approfondimento che c'è, l'altro titolo importante sulla prima pagina di Financial Times, perché ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, l'Unione Europea starebbe pensando proprio di mappare tutte le installazioni tecnologiche cinesi nell'Unione Europea, perché continuano a crescere quei timori serpeggiati nelle settimane scorse sulla possibilità che l'arrivo delle reti 5G, specie appunto quando sono in parte controllate o addirittura costruite da colossi cinesi, possano portare al cyber spying, il cyber spionaggio. Sulla questione dell'auto e delle fonti rinnovabili, molto interessante la big read, cioè l'articolo lungo da leggere oggi su Financial Times, pagina 7, tutto dedicato all'idrogeno e alla scommessa che la Cina sta facendo appunto su tutto quello che sono le batterie a idrogeno e quindi anche batterie che potrebbero servire in futuro per una serie di mezzi di trasporto. Passiamo a Sole 24 Ore. Come vi dicevo, i giornali italiani sono ancora a due giorni dall'approvazione, concentrati sulla manovra, e il Sole 24 Ore in particolare fa un approfondimento sul reddito di cittadinanza, perché si comincia a capire come funzionerà. Ecco le 10 tappe per ottenere l'assegno. La bozza di decreto trovate tutto a pagina 3. Dal 1 marzo i beneficiari potranno presentare domanda alle poste, poi ci sarà una verifica dell'INPS sui requisiti, perché sapete sono numerosi i requisiti per avere diritto al reddito di cittadinanza. E poi però ancora manca l'accordo con le regioni sulla distribuzione di 4.000 nuovi navigator, così li ha definiti Di Maio, e sono quasi degli angeli custodi, se vogliamo, che dovrebbero appunto aiutare nella navigazione verso il mondo del lavoro, da quello della disoccupazione a quello del lavoro, le persone che avranno il reddito di cittadinanza, ma come sapete si dovranno anche impegnare comunque a continuare a cercare lavoro e ad accettare le proposte che verranno fatte. Prosegue la guida alla legge di bilancio, che è iniziata già lunedì. Oggi siamo ancora, torniamo in particolare, trovate tutte le pagine 22-24 alla fatturazione elettronica. Poi altre due notizie dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Da una parte ovviamente la crisi Carige, della grande banca di Genova, che è così fortemente radicata a Genova ma in tutta la Liguria da naturalmente far pensare a dei paralleli con il significato che aveva, economico ma anche simbolico, il Monte dei Paschi per Siena e per parte della Toscana. E infatti si parla anche in un'intervista all'ex presidente Pietro Modiano, alle conseguenze che può avere un eventuale default della banca sul territorio. E tanto che appunto i commissari stanno mettendo a punto, e Pietro Modiano è uno di questi, un piano lampo in quattro mosse. E poi un'analisi attentissima di Gianni Dragoni, che a questi temi dedica sempre molta attenzione, ed è quella degli stipendi, in questo caso non dei top manager ma dei calciatori, stipendi e in generale tutto quello che il giro d'affari, ecco, potremmo dire, di un calciatore. È il campione e risulta Neymar, il calciatore che vale di più, è un calciatore di origini brasiliane. Cristiano Ronaldo invece, pensate un po', benché sicuramente coperto d'oro dalla Juventus, resta fuori dalla top 10. Il Corriere della Sera sfida tra sindaci e Salvini, come molti altri quotidiani. Il Corriere si concentra su questo episodio di ieri, lo avete sentito anche nei GR, questo scontro tra appunto alcuni sindaci, in particolare quello di Palermo, Orlando e quello di Napoli, che hanno annunciato di non voler applicare il decreto sicurezza. E il ministro Salvini, che è il principale, insomma, che fautore di questo decreto, era uno naturalmente dei cavalli prima elettorali e poi di tutta l'iter dei primi mesi di governo del leader della Lega, e quindi il ministro ha risposto: va bene, rinunciate anche ai fondi che spettano ai comuni. La fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata a un fatto che coinvolge la Cina e Taiwan. Vedremo anche alcuni episodi interessanti. Sapete che Taiwan fa parte della cosiddetta Greater China, che comprende anche, quindi, non soltanto la mainland, cioè la parte continentale della Cina, ma anche Taiwan e Macao. E poi naturalmente c'è Hong Kong, che però è già dal 1987 che è parte integrante della Cina. Siccome Taiwan ha da sempre delle spinte indipendentiste, ieri il presidente Xi Jinping ha fatto un discorso e torna la tensione, racconta Guido Santevecchi. Xi avverte Taiwan: pronti a usare la forza per appunto reprimere queste spinte indipendentiste. Dalla prima pagina vi segnalo anche un'intervista che poi trovate a pagina 11, fatta da Daniele Vanca, vice direttore del Corriere della Sera, al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Forse non c'è bisogno che lo ricordi, però io lo faccio sempre, un po' una mia tara mentale. Ricordo per trasparenza che Confindustria è appunto controlla questo gruppo editoriale, del quale fa parte anche Radio 24. E tra l'altro, ma questo è appunto una nota a margine, in realtà il tema principale che tocca Vincenzo Boccia in questa intervista è il lavoro, e la definisce l'emergenza dimenticata. In edicola, come ogni giovedì, con il Corriere della Sera, l'allegato 7, divertente la copertina perché si intitola Sapete l'inglese, e ci sono 7 multiple choice, domande multiple choice, dove si dovrebbe, chi vuole può farle un giochino, poi le soluzioni sono a pagina 22, come si traduce un'espressione italiana. E vi confesso, io naturalmente l'ho fatto e ne ho anche sbagliata una. Due, però non sono sicura che la seconda sia veramente uno sbaglio. Comunque, per esempio, ve ne leggo una, magari pensateci, se avete voglia datemi la vostra risposta al 349-238-6666, così per fare anche un piccolo gioco. Come si traduce infradito in inglese? E le possibilità sono 4: Honolulus, flip-flops, between the fingers o sandaloos. E vedete un po' voi, poi ce ne sono appunto altre 6, sono divertenti. E vi dico anche quale ho sbagliato io, che è la traduzione di fuori di testa, perché in realtà qui è molto letterale, secondo 7 si traduce proprio out of one's mind. Io invece avevo messo mindless. Le altre due, pensando alla mindfulness, che è il contrario, e le altre due erano beheaded, che in realtà vuol dire decapitare, e headless, che vuol dire essere senza testa, ma proprio nel senso che uno non ha fisicamente la testa. Il Fatto Quotidiano: reddito, ecco chi lo avrà, cosa dovrà fare, quanto prenderà. Trovate tutto alle pagine 2 e 3. Un approfondimento anche sui conflitti di interesse. Poi c'era anche uno sui vitalizi, tutto sulla prima pagina. Sui conflitti di interesse, sapete che quando si entra in Parlamento bisogna dichiarare le possibili fonti di conflitto di interesse. Per esempio, non so se uno lavora, come è capitato anche in passato, al Ministero delle Infrastrutture, se ha aziende che lavorano in quel settore, lo deve dichiarare. Secondo l'analisi del Fatto, che trovate poi a pagina 4 e 5, un onorevole su 3 non è in regola. Per quanto riguarda invece i vitalizi, sapete che sulla cancellazione dei vitalizi alla Camera pendono i ricorsi presentati dai parlamentari ai quali è stato tagliato, però, scrive il Fatto Quotidiano, vitalizi altri tagli, la Camera risparmia 150 milioni in 3 anni. Però viene anche precisato appunto che, in attesa dell'esito dei ricorsi degli ex parlamentari, i soldi restano in cassa. L'editoriale di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, è un attacco sia a tutti i giornalisti che hanno parlato bene, ma non soltanto i giornalisti, perché in realtà, come sappiamo, il discorso è stato poi seguito sia in televisione, dove è stato trasmesso praticamente a reti unificate, sia poi sui siti. Quindi è un attacco a tutte le persone che hanno apprezzato il discorso di Mattarella, in particolare naturalmente ai giornalisti. Ormai Marco Travaglio sembra avere quasi solo nemici nella sua stessa categoria, o meglio, li attacca tutti senza eccezioni. E poi è un attacco quindi anche a Mattarella. Il titolo dell'editoriale lunghissimo che trovate in prima pagina e poi che continua a pagina 24, un'analisi che deve essere, non so quante ore avrà perso, avrà impiegato Marco Travaglio, per lui sicuramente è un modo interessante di impiegare il proprio tempo ad analizzare tutti questi discorsi. Comunque l'editoriale si intitola Eruzioni di Bava, perché sapete, chi apprezza Marco Travaglio apprezza sicuramente anche questa sua continua, reiterata ironia. Vi leggo le prime righe per darvi l'idea di quello appunto del tono dell'articolo. In perfetta sincronia con l'Etna che erutta lava, i quirinalisti di professione e di complemento eruttano bava. Uno tsunami di saliva tracima da ogni dove e rischia di sommergere il Quirinale. Una nuvola d'incenso minaccia di oscurarlo. Una gigantesca lingua potrebbe stritolarlo. Roba da allertare immantinente la protezione civile e da riunire in seduta straordinaria il Consiglio Superiore di Difesa per salvare l'incolpevole inquilino del Colle dall'annegamento. Abbiamo capito Marco Travaglio. E quindi, anzi no, prosegue ancora un po' la presentazione e poi, come vi dicevo, la carrellata di tutte le frasi che secondo Marco Travaglio sono un esempio appunto di eruzione di bava. Il Messaggero: sindaci ribelli, scontro con Salvini, quindi titolo molto simile a quello del Corriere della Sera. Orlando, sindaco di Palermo, disubbidisce al decreto sui migranti, il sindaco di Napoli De Magistris e quello di Firenze Nardella lo seguono, e il Viminale, appunto la reazione immediata del Viminale e di Matteo Salvini è stata: ne risponderanno legalmente. La fotonotizia è dedicata a quel fatto di cronaca della bambina morta in Val di Susa sugli sci, aveva solo 9 anni, era di Roma, quindi il Messaggero appunto dà questo risalto: 9 anni, muore sugli sci. E poi la reazione a caldo del padre è stata colpa delle barriere. Forse poi ci sono tanti commenti, l'unica cosa così neutra che possiamo dire è che dobbiamo ricordarci che appunto sciare è un'attività che, come tutte le attività sportive dove non siamo soli ma siamo innanzitutto immersi nella natura e poi circondati anche da altri che possono essere anche degli ostacoli, sciare è comunque un'attività pericolosa, da qui negli anni l'evoluzione anche delle misure di sicurezza, a parte le barriere sulle piste, ma per esempio l'obbligo dei caschi appunto per i bambini. La Repubblica, migranti, sindaci disobbedienti, quindi titolo molto simile a quello del Corriere della Sera e del Messaggero. La fotonotizia invece viene dall'India, perché in India c'è stata questa rivolta simbolica, anche abbastanza pacifica, anche se poi la foto vede gli agenti portare via con la forza alcune donne, perché le donne sono entrate nel tempio di Sabarimala in Kerala, nella regione del Kerala, e era una cosa che fino appunto a questo atto di disobbedienza civile, potremmo chiamarlo così, era vietato alle donne. E da qui Bindu e Kanaka nel tempio proibito è la vittoria delle donne indiane. La Stampa, come il Sole 24 Ore, si concentra invece sulla forma che prenderà il reddito di cittadinanza. Prime lettere ad aprile, un assegno medio calcolato in 498 euro. Anche in questo caso la fotonotizia è dedicata a questa protesta in India. Scoppia la rivolta contro le donne nel tempio indù, perché appunto questo tempio di cui vi ho parlato era un tempio che per le regole della religione indù era vietato alle donne. Libero prende spunto Azzurra Noemi Barbuto, che ieri aveva fatto quella bella inchiesta e oggi vi segnalerò che l'hanno seguita in altri giornali, quella bella inchiesta trascorrendo il Capodanno in un pronto soccorso di Milano. Oggi invece si concentra su un rapporto appena pubblicato dal World Economic Forum che parla del grado di istruzione delle donne, e si scopre che le donne italiane sono le più istruite al mondo. Siamo al primo posto per iscrizioni femminili all'università e al 118esimo posto per contributo rosa all'economia del sapere del paese. Tanto sapere sprecato. Oggi poi, veramente ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, perché c'è questo gioco sempre un po' ad anticipare anniversario avversari di ogni genere. Oggi è veramente il giorno in cui Michael Schumacher compie 50 anni e quindi il libro in particolare dedica al campione, che è in stato vegetativo da molti anni, un articolo di Melania Rizzoli, che oltre a collaborare quasi ogni giorno con Libero è un medico, e dice: compleanno di un campione ormai vegetale. E secondo appunto il suo parere medico è inutile illudersi, anche se naturalmente le persone che gli vogliono bene fanno molta fatica a non farlo, inutile illudersi che si riprenda. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666. E visto che insomma abbiamo fatto questo giochino, ha vinto l'ascoltatore che ha detto che la traduzione di infradito è flip-flops. Invece all'ascoltatore che mi dà una serie di improperi, insulti, chiamiamoli come vogliamo, perché ho detto che Taiwan punta all'indipendenza. È vero, Taiwan è indipendente, quello, diciamo, precisiamo, quello che Taiwan teme è che Xi Jinping, presidente della Cina, voglia invece una riunificazione vera e propria. È quello che ha detto ieri, e l'ha chiamata anche un fatto ineluttabile della storia, e appunto Taiwan invece vorrebbe mantenere la sua indipendenza. Vi segnalo anche, sempre grazie a un ascoltatore, ho detto Hong Kong indipendente dall'87, in realtà ufficialmente cioè riunificata con la Cina dall'87, in realtà 97. E così abbiamo fatto queste due precisazioni importanti, quindi ringrazio comunque gli ascoltatori, anche quello che mi ha condito la precisazione di insulti, ma pazienza. Vi segnalo dal secolo XIX, ovviamente essendo il quotidiano di Genova, un approfondimento, anzi l'apertura proprio del giornale sulla vicenda di Carige, perché a questo punto, essendo una grande banca a rischio default, interviene la Banca Centrale Europea, commissariata la banca. E poi il secolo XIX giustamente mette in prima pagina questa foto di Roberto Bolle. È stato un grandissimo successo quello del suo show trasmesso su Rai 1, e siccome ha conquistato il pubblico e celebrato la voglia di riscatto di Genova dopo il crollo del Morandi, e Bolle, che in questa scenografia ha virtualmente unito con il suo corpo i monconi del ponte, è appunto un ulteriore motivo sicuramente per tutti i genovesi, ma forse per tutti gli italiani. Siamo stati, credo, tutti molto molto colpiti da quella tragedia del 14 di agosto, in cui il ponte è crollato, il ponte simbolo di Genova, e sono morte 43 persone. E quindi appunto Bolle, da Record in TV, celebra il riscatto di Genova. Il giornale: disobbedienza incivile, rivolta dei sindaci rossi. Perché rossi? Perché sia appunto il sindaco di Palermo Orlando, quello di Napoli De Magistris e quello di Firenze Nardella sono comunque identificabili con il centrosinistra, in qualche modo legati al centrosinistra, e da qui appunto il giornale. Rivolta dei sindaci rossi, non rispettiamo le leggi sui migranti. E poi un approfondimento sul reddito di cittadinanza molto critico, perché è intitolato controlli impossibili per il reddito. E poi un approfondimento su Grillo, non so se qualcuno di voi ha seguito il suo messaggio, chiamiamolo così, di Capodanno, dove non saprei riassumerlo perché non ho capito che cosa volesse dire, però ha colpito di più l'immagine, cioè era quella di Grillo coperto da una maschera, spuntavano però i capelli, quindi sicuramente il volto dietro quella maschera era lui, però grazie a un escamotage tecnologico, così anche abbastanza semplice fotomontaggio, il corpo in realtà era quello di un culturista tipo Schwarzenegger ai tempi d'oro. Però il giornale, più che di questo, che naturalmente ormai è storia antica, se vogliamo, perché sono passati 3 giorni, fa un'analisi del blog di Beppe Grillo, da cui tutto è nato, da cui il Movimento 5 Stelle è nato. Grillo lascia lo scettro, il suo blog ha perso 30.000 posizioni, era uno dei più cliccati al mondo. Ora, secondo questa classifica che ha guardato con attenzione Domenico Di Sanzo, di Forbes, pubblicata da Forbes, il blog appunto ha perso terreno. L'editoriale del direttore del giornale Alessandro Sallusti si intitola Si vergognano i mantenuti a 5 Stelle e è in questo caso un articolo molto critico verso Di Maio, ma anche di Battista, che, lo ripetiamo sempre, non è in questo momento un parlamentare del 5 Stelle perché non si è presentato alle ultime elezioni politiche, è stato per molti mesi in Sud America e da lì mandava dei reportage pubblicati dal Fatto Quotidiano. Forse, questo è uno scoop di ieri del Fatto, potrebbe tornare all'estero, potrebbe di nuovo lasciare l'Italia, questa volta per l'Africa, sempre poi condendo questo impegno con i reportage che sempre il Fatto pubblicherebbe. Avvenire, obiezione umanitaria, il riferimento naturalmente è a questa protesta dei sindaci. Orlando e De Magistris non applicano il decreto sicurezza per gli immigrati e l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni, chiede delle modifiche e Salvini ha risposto: non si può e dovrete rinunciare ai fondi. Poi naturalmente le parole del Papa di ieri, che hanno fatto molto discutere, forse lo faranno ancora nei prossimi giorni, nelle prossime ore, riassunte in si va in chiesa e poi ci si comporta da non cristiani fuori dalla chiesa è un vero scandalo. Poi molti riassumono questo meglio atei che appunto cristiani ipocriti. La verità: niente pensione di cittadinanza nel 2019, la manovra infinita, perché come abbiamo visto ieri, come ha ricordato, spiegato il Sole 24 Ore, andando con un lavoro certosino dei colleghi di Roma, andando a vedere bene qual è appunto il passo successivo dopo l'approvazione definitiva alla Camera della manovra, e abbiamo scoperto che ci vogliono 160 decreti attuativi. Più di 120, no, 160, giusto, 4 volte rispetto ai 40 previsti inizialmente, senza i decreti attuativi che a loro volta devono avere un iter parlamentare e nelle commissioni la legge finanziaria, di fatto tutte le misure previste non possono diventare concrete, non possono diventare realtà. Quindi da qui appunto la manovra infinita. E anche la verità ha analizzato quello che finalmente, il testo che finalmente c'è della manovra. Malgrado le promesse di Di Maio, nella bozza di legge è scritto che il provvedimento scatterà soltanto nel gennaio dell'anno prossimo. Molti paletti, primo fra tutti l'erogazione a nucleo familiare. Polemica per il reddito agli immigrati, si calcola che appunto per questo sono necessari 1,2 miliardi. E poi, come vi dicevo, le parole del Papa: il Papa meglio atei che cattivi cristiani. Il manifesto, rivolta in comune, comune con la C maiuscola, naturalmente il tema è quello della disobbedienza civile che è partita da Palermo con questo no del sindaco ad applicare il decreto sicurezza. Il Foglio, vi segnalo... Vabbè, mi verrebbe la tentazione di leggere la piccola rubrica di oggi di Andrea Marcenaro, Andrea's Version, perché è dedicata a Di Battista e alla sua, appunto, questo possibile viaggio in Congo, ma poi magari mi accusate di essere, come fanno un paio di ascoltatori, così di forzatamente grillina. No, è solo che questa ironia un pochino più leggera di quella di Travaglio mi fa sorridere di più, ma sono altri gli articoli interessanti sulla prima pagina del Foglio. Da una parte questa lettera di 130 scienziati che contro le fake news, naturalmente soprattutto quelle che riguardano la scienza, e in particolare in questa stagione in cui i vaccini sono molto importanti, le fake news sui vaccini. E trovate poi l'appello a pagina 4 appunto del Foglio. Un altro tema molto interessante toccato dal Foglio è naturalmente quello dell'economia, con anche qui un'analisi e un appello, se vogliamo, di tante personalità a considerare in modo diverso, tornando, guardi, ve lo cito subito perché lo trovo molto interessante: riscossa urgente, perché dobbiamo concentrare le competenze e le idee per unire il paese su solidarietà e lavoro. Un appello appunto firmato da Leonardo Becchetti dell'Università Tor Vergata, Marco Bentivogli, segretario della FIMCISL, Mauro Magatti, Università Cattolica, e Alessandro Rosina, sempre dell'Università Cattolica. Torniamo alle pagine del Sole 24 Ore, questa volta dall'interno. Ieri abbiamo visto l'approfondimento sulla regione Emilia-Romagna. Oggi Cristina Casadei ci racconta invece un settore, quello della chimica. La produzione rallenta, che è una delle grandi eccellenze manifatturiere italiane. Nel 2019 forse ci sarà appunto una crescita zero, quindi un ulteriore, pensate che il settore della chimica ha oltre 1400 imprese, e naturalmente quindi appunto anche un motore economico del paese, però insomma le nubi di rallentamento, se non di recessione, aleggiano anche su questo settore. E poi invece un altro settore che abbiamo detto a sua volta vede molte nubi all'orizzonte, quello dell'auto. C'è stata, è vero, una mini ripresa a dicembre, ma il 2018 comunque, ce lo racconta Filomeno Greco a pagina 10 del Sole 24 Ore, si chiude con un meno 3,1%. C'è anche un'infografica che fa vedere chi ha perso di più e chi ha perso di meno. Una molto interessante, un reportage di Giovanna Mancini dal centro di ricerca, principale centro di ricerche europee della Coca-Cola. 85 esperti elaborano nuove ricette, nuovi prodotti per ampliare l'offerta e adattarla alle differenti esigenze dei mercati in cui il gruppo è presente. Non so voi, ma io trovo sempre affascinanti questi retroscena, cioè andare a vedere appunto noi alla fine, noi consumatori un po' passivamente vediamo e magari anche compriamo, siamo incuriositi dalle novità delle grandi multinazionali, in questo caso la Coca-Cola, ma come nascono quelle novità? Scienziati che reinventano la Coca-Cola del futuro. Vi dicevo la top 10 dei calciatori che valgono di più di Gianni Dragoni, pagina 17, con questo primato di Neymar che ha un valore di mercato di 229,1 milioni a solo 26 anni. Al decimo posto c'è un giocatore italiano, il giocatore del Milan, Franck Essier, che invece ha un valore di mercato di 55. E come ci diceva appunto, come vi dicevo nel annunciarvi l'articolo, Cristiano Ronaldo è fuori dalla top 10, ma in realtà è comunque quello col valore più alto in Italia, perché al secondo posto c'è un altro juventino, Dybala, e al terzo posto Mauro Icardi dell'Inter. Molto interessante, perché quello del retail, di come stanno, che sta per negozi fisici, si intende in generale, perché poi appunto i negozi nel tempo si sono trasformati anche in virtuali, però all'inizio erano, come sappiamo, solo fisici. È un settore che si sta trasformando sulla spinta dell'e-commerce, ma non soltanto, e Luca Tremolada ci racconta questa innovazione fatta da Bershka, che è una delle insegne del gruppo Inditex, il gruppo che controlla anche Zara, partito da Cremona, questo esperimento di un negozio senza staff, sostanzialmente negozi automatizzati pronti al via. Sono esperimenti, naturalmente, perché sapete che poi succedono anche cose bizzarre, come il fatto che Amazon, che è il colosso del commercio elettronico, poi abbia cominciato ad aprire dei negozi fisici. Quindi per questo dico evoluzione, non è detto che si vada solo in una direzione, cioè abbandonare tutto quello che è fisico per abbracciare invece rivoluzioni o innovazioni digitali e tecnologiche. Prima di lasciarci un attimo per una pausa sul traffico, vicende americane, avete sentito il durissimo attacco di Mitt Romney, ex candidato alle primarie per correre poi come candidato repubblicano alle elezioni presidenziali, sconfitto da Trump nell'ultima tornata. E ieri ha fatto capire che sarà di nuovo un avversario per le prossime elezioni, e ha criticato molto duramente Trump. Però invece dall'altra parte ci sono le possibili candidature di Elizabeth Warren da una parte, che è una senatrice democratica, e poi di Nancy Pelosi, che però è il capo dei deputati della Camera, che sapete è passata dopo le elezioni di midterm a controllo democratico, però ha anche annunciato, quindi in questo caso non è la battaglia per le prossime presidenziali, ma quello che ci separa dalle prossime presidenziali americane tra due anni, Nancy Pelosi ha accettato questo ruolo di capo appunto della Camera dei Deputati americana, ma ha anche detto che poi il suo impegno politico finirà. Vedremo poi se cambierà idea. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, tanti veramente molto così incoraggianti, alcuni un po' meno, ma è giusto che sia così. E tra l'altro appunto l'ascoltatore che mi rimproverava di aver detto un'imprecisione su Taiwan dice rincara la dose, ma insomma ho cercato di correggermi e di precisare, e comunque tant'è, Taiwan in questo momento della sua storia è indipendente, ha conquistato l'indipendenza, però il presidente Xi Jinping, vi segnalo per esempio l'articolo a pagina 15 del Corriere della Sera, dice: siamo un paese unico e siamo pronti a usare la forza per questa attuare questa riunificazione, appunto arrivare a questo sogno della Greater China. Vi dicevo, l'azzurra Noemi Barbuto con il suo interessante reportage in un pronto soccorso di Milano nella notte di Capodanno, la stessa cosa hanno fatto Andrea Galli sul Corriere della Sera, è nelle pagine della cronaca di Milano, quindi chi compra il Corriere fuori da Milano forse non lo troverà, ma suppongo ci sarà online. Scarpe fuori misura e sedie come letti nel dormitorio del Fate Bene Fratelli, che è appunto uno degli ospedali più famosi di Milano, con un pronto soccorso tra i più trafficati. E poi anche questa è una notizia che mi ha colpito, perché ne abbiamo parlato tanto di questa diffusione allarmante degli oppioidi sintetici, ne abbiamo parlato tanto a effetto mondo, perché negli Stati Uniti è una vera e propria emergenza, con un record di overdose nel 2018 e nel 2017. E ieri c'è stata una razzia in un ospedale milanese di farmaci oppioidi che poi vengono spacciati appunto come eroina sintetica. Questo è successo a Melzo, alle porte di Milano, ed è stato appunto portato via tutto il fentanyl, che è uno di questi oppioidi sintetici. Sulla questione legata alla questione dell'introduzione del ticket, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi per entrare a Venezia, il Messaggero approfondisce: da Amalfi alle Cinque Terre, ora tutti vogliono il ticket. Dopo il via libera per Venezia, corsa a stoppare questo turismo morde e fuggi, perché lo ricordiamo è un ticket che appunto viene fatto pagare ai turisti che non pernottano a Venezia, ma appunto ci passano poche ore, da qui la definizione mordi e fuggi. Per chi volesse approfondire questa bella storia che viene dall'India, la vittoria delle due indiane nel tempio proibito alle donne, lo trovate Raimondo Bultrini a pagina 12 della Repubblica. E con la Repubblica oggi e anche con la Stampa, peraltro, c'è un approfondimento sul cibo che verrà, insomma, questo anno che è appena iniziato. Ci concediamo ancora tutte queste previsioni, poi ci sono appunto anche sul Corriere della Sera le 10 domande alle quali vorremmo una risposta per il 2019. E la Repubblica invece, con il suo supplemento Food, si dedica appunto anno nuovo, nuovo menù, dal gelato al vino, dal ruolo di Milano a quello dei social, 12 voci per capire che cibo sarà. E invece la Stampa, tutti i gusti, e in particolare però qui l'approfondimento è sui dolci tipici della Befana, che è il giorno dell'Epifania, il 6 di gennaio, perché siccome noi abbiamo questo straordinario patrimonio e ricchezza di tradizioni gastronomiche che variano da regione a regione, anzi da provincia a provincia, anzi da comune a comune, e qui appunto giro del mondo, in realtà si va anche oltre all'Italia, fra le delizie dell'Epifania. Dalla Stampa di Torino vi segnalo anche un approfondimento sui ritocchi autostradali. Sappiamo che sono stati congelati sul 90% delle tratte. In quel 10% in cui questo non è successo, cadono anche alcuni pedaggi autostradali piemontesi, e da qui Lucia Caretti a pagina 38 della Stampa: autostrade più care, la rabbia delle montagne, danni per il turismo. Il ritocco ai pedaggi fa infuriare la Valsusa, vanificati i nostri sforzi, raggiungere le piste costa come lo ski pass e le stanze dell'hotel. Vi dicevo il lungo articolo di Melania Rizzoli su Libero, pagina 29, su Michael Schumacher, l'ex fenomeno di Formula 1, oggi compie 50 anni, e sono passati 5 anni da quel drammatico incidente sugli sci, portava il casco tra l'altro Michael Schumacher, e i giornali tedeschi scrivono di una possibile ripresa, ma in medicina non esistono i miracoli, i danni del tessuto nervoso del cervello e del midollo spinale non sono riparabili. Sapete che la ricerca, magari forse io non vedrò queste cose, ma i nostri nipoti, i nostri pronipoti forse lo vedranno. La ricerca sta lavorando sulla rigenerazione dei neuroni, ma in realtà i neuroni non sono tra le poche cellule che, una volta appunto distrutte, sono per esempio quelle del cervello, poi non si non possono essere riparate né ne nascono di nuove, cioè noi nasciamo con una dotazione di neuroni e, a differenza di tanti altri tipi di cellule come quelle del fegato per esempio, non si rigenerano, quindi una volta danneggiate, per questo Melania Rizzoli scrive in medicina, non, sulla base di quello che sappiamo oggi, non esiste questa possibilità e soprattutto non esistono i miracoli. Non ci avevo mai fatto caso, anche perché raramente faccio la rassegna durante la settimana, ma al giovedì sul Secolo XIX, mentre la domenica c'è una pagina molto divertente dedicata al dialetto genovese, al giovedì invece c'è una pagina tutta scritta in spagnolo, perché sono tantissimi le persone che parlano spagnolo, immigrati naturalmente, in Liguria e a Genova in particolare. E quindi Genova Semanal, con tra l'altro un po' la formula è quella usata per la pagina dedicata al dialetto, una ricetta e poi alcune novità, per esempio per quanto riguarda le badanti, un titolo in spagnolo appunto, previsto un registro de badantes y cupón de ayuda para las familias. Dal Fatto Quotidiano, che ha degli poi l'ascoltatore che dice sono pessima perché ce l'ho con Travaglio, io non ce l'ho con Travaglio, io non ce l'ho con nessuno, mi sono limitata a segnalare questa sua ironia esagerata, a mio modesto modo di vedere, e alcuni ascoltatori mi criticano per questo, ma lascio trapelare a volte come la penso su certe cose o su un certo stile giornalistico. Questa ironia così pesante, così forzata, sì, un po' mi infastidisce, lo leggo comunque, quindi non ce l'ho con lui. Credo che leggere comunque l'articolo di qualcuno sia vuol dire non avercela con qualcuno, sennò semplicemente l'insulto peggiore è ignorare le persone. Io non ignoro Marco Travaglio, per esempio gli riconosco di dirigere un giornale che dà tantissimo spazio a inchieste molto interessanti. Oggi per esempio, pagina 16-17, nella capitale della mafia nera, viaggio a Castel Volturno. Negli ultimi 30 anni la città è diventata luogo ideale per il reclutamento delle nuove leve di un esercito sanguinoso, terra di nessuno dove criminalità africana e camorra si saldano tra droga, degrado e prostituzione. E sempre dal Fatto Quotidiano un altro bellissimo approfondimento dagli esteri sul Giappone, perché ieri c'è stato questo addio ufficiale di Akihito, l'imperatore, e nella foto è ritratto insieme alla moglie Michiko. È stato poi ufficialmente, se ne andrà ad aprile davanti a 115.000 persone nel giardino del palazzo della Casa Reale, ha salutato i giapponesi. L'ultimo discorso dell'imperatore che portò la pace. Suo figlio Naruhito si è finora dedicato ad attività benefiche e umanitarie. E da qui vedete come si possono dare titoli diversi allo stesso fatto, perché invece forse me lo sono perso perché mi aveva un po' appunto infastidita. Comunque c'è un altro giornale che titola, credo sia O Libero o il giornale Libero, Akihito lascia al figlio testuale sfigato. Vabbè, perché finora si è dedicato ad altro. Comunque, insomma, la notizia è questa: che l'imperatore giapponese ha ufficialmente salutato il suo popolo e lascerà appunto questo incarico più che altro onorifico al figlio. Vi ricorderete forse da Financial Times in prima pagina l'altro giorno la notizia che Netflix aveva cancellato un episodio di una serie per non urtare le sensibilità saudite. Ora ne parlano parecchi giornali, il giornale per esempio: Netflix si inclina ai sauditi, stop al comico anti Bin Salman, cioè il principe ereditario. Questo colpo, ne avete sentito anche nel GR, davvero un po' da fumetto, da film, quei film dove i rapinatori diventano quasi degli eroi perché compiono queste imprese, non succede solo nei film, succede anche nella realtà. Assalto al portavalori, rapinati 2 milioni, tra l'altro soldi, come avete sentito, per le pensioni degli uffici postali di Matera e della Basilicata. E la cronaca, in questo caso c'è su molti giornali, ma per esempio pagina 15 del giornale con anche una foto. Naturalmente c'è la questione, l'abbiamo vista sulla prima pagina del manifesto, di questa nave alla quale Malta ha questa nave con i migranti salvati dal naufragio nel Mediterraneo. I porti di tutta Europa sono chiusi per questa nave, ci sono 32 persone a bordo. E Malta, che ha chiuso il suo porto e ha ribadito che non potranno sbarcare, però almeno ha permesso a questa nave di attraccare per effettuare interventi di emergenza, medici o comunque per esempio per rifornirli di generi di prima necessità. L'Avvenire fa un approfondimento anche su tutti i tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico, quello guidato da Luigi Di Maio, dall'Alitalia alla Pernigotti. Trovate tutto sull'Avvenire. E poi l'Avvenire è l'unico che dà spazio, lo spazio giusto secondo me, a questa notizia. Purtroppo ieri c'è stato il primo morto sul lavoro del 2019, è accaduto ad Agrigento e pensate che nel 2018 sono state 703 le vittime di incidenti sul lavoro, con una crescita del 9,7% rispetto all'anno precedente. Anche, e anche in questo caso l'Avvenire è l'unico, perché per altri giornali è una breve, che dà tanto spazio a questa notizia, non è stato un femminicidio, però è stato un episodio di violenza gravissima di un uomo contro una sua ex, le ha messo alla quasi strozzata utilizzando il guinzaglio del cane. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti voi che ci avete ascoltati e naturalmente ci ritroviamo domani e è ancora tempo, direi, siamo al 3 di gennaio per fare ancora tantissimi auguri di buon 2019 e buona giornata da Giulia Crivelli.